scintillar perché là y el aros de la mestele ma non sai tu la che sta. Oh signore, ti prego, ti prego, fa sfiorire le rosute, dammi segni la che è parco planti. Impas nos si può vivi facendoci il fagot. Annin, annin, insieme lassù. Dall'alba fino a sera, le lune che gran lavoro. Insieme lassù che fa l'amore dall'alba fino a sera è l'unico gran lavoro dall'alba fino a sera le l'unico gran Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.